Radio 24 Reportage. Inshallah, Europa. Ceuta, la dolce prigione, di Giampaolo Musumeci. Africa, ultima frontiera. Ceuta, città autonoma spagnola in territorio marocchino, proprio di fronte a Gibilterra, è un pezzo di Europa in terra d'Africa. Eredità di un passato coloniale, frammento di una politica d'altri tempi, miraggio per migliaia di migranti in viaggio dal sud del mondo, teatro in passato di veri e propri assalti da parte di marocchini e subsahariani. Ceuta, porta dell'Eldorado europeo, fino a quando la linea dura di Zapatero non mise fine ai sogni e alle sempre più insensate illusioni di migliaia di migranti. La linea dura contro l'immigrazione irregolare a partire dal 2005 significò maggiori pattugliamenti alle Canarie, accordi con il Marocco per i rimpatri e le pallottole su chi tentava di scavalcare le alte reti di Ceuta e Melilla, l'altra enclave spagnola. Nel 2005, anno dei grandi assalti, guardia civile e polizia marocchina uccisero decine di africani. Ora è sempre più difficile entrare a Ceuta, ma non impossibile. Telecamere, doppia rete di protezione, muri, fucili spianati. Ma non si smette di entrare. Si fatica di più, si pagano di più i trafficanti. E si muore come prima. Lo sanno bene i circa 400 migranti ospitati dal centro di accoglienza della città, senegalesi, ghanesi, ivoriani, nigeriani, che hanno attraversato l'Africa per arrivare fin qui. E lo sanno anche i 74 indiani del Punjab che hanno attraversato mezzo mondo e da 2 anni sono bloccati a Ceuta, la dolce prigione. If you fight yourself and you will lose the game. Se combatti per te stesso, perderai la partita. Se lotti per qualcun altro, la vincerai. E noi ora lottiamo per tutti i migranti. E cerchiamo di dire agli europei che noi non siamo dei numeri, siamo esseri umani. The people in Europe that we are not a number, we are human beings. Così parla Babu, 24 anni, di Punjab, giovane dal mesto sorriso, lucido motore di un'azione quasi senza precedenti. Lui e circa 50 suoi connazionali tra i 18 e i 40 anni sono accampati sulle montagne che dominano la città, nella foresta, per protesta. Los tigros del monte li chiamano, le tigri della montagna, non sopportano più il limbo in cui versano, non sanno che cosa riserva loro il futuro, il rimpatrio in India o il permesso di soggiorno per motivi umanitari. La risposta del governo spagnolo potrebbe arrivare tra giorni o tra mesi. 4 years ago, when I left India, and I think it's a little bit easy for to find the work and... 4 anni fa, quando lasciai l'India, pensavo che sarebbe stato facile trovare un lavoro in Europa, perché la popolazione è molto minore che in India. Ora ho visto che anche qui la situazione sta diventando difficile per il lavoro, a causa della crisi. Ma io credo che tu nella vita hai diritto a una chance. E quando riesci a coglierla, la tua vita migliora. Se potessi dire qualcosa al governo spagnolo o italiano, direi, per favore, cercate di capire i nostri sentimenti e come vivono i migranti. Cercate di aiutarci e non chiudete la porta. Ogni migrante ha dei problemi. Se avessimo avuto il lavoro in India, non avremmo lasciato il nostro paese. Pensate ai vostri figli. Se sapeste che sono stati in viaggio per anni nelle prigioni di altri paesi, combattendo con la mafia dei trafficanti, come vi sentireste? In the jail, in fight with mafia, in Sahara, and what they think? L'odissea per i 74 indiani inizia 4 anni fa, quando decidono di lasciare la città di Punjab nel nord-ovest dell'India per l'Europa. Per fare fortuna, per mandare soldi a casa, per migliorare la situazione delle loro famiglie, a volte oppresse dagli stenti della vita agricola. Non tutte le situazioni erano drammatiche. Tra gli indiani ci sono anche studenti universitari e gente che non se la passava troppo male, tutti accomunati però dal desiderio di cambiare vita. Chi poté, vendette case, terreni, si indebitò e si mise nelle mani dei trafficanti, quelli che loro chiamano la mafia, pagando dai 10 ai 30 mila euro a testa. La promessa era che in 2 settimane sarebbero arrivati in Europa. Il meccanismo? Molto semplice. C'è un uomo a Punjab, l'agente, che tutti conoscono. Basta rivolgersi a lui. Lui organizza il viaggio, ti dice quando partirai, quanto spenderai e quando arriverai in Europa. E la partenza sembra quella di un normalissimo viaggio di turismo o di piacere. Passaporto alla mano, ci si reca all'aeroporto di Nuova Delhi. La mia è una lunga storia. Sono partito dall'India, da Nuova Delhi, il 5 dicembre del 2005. Sono arrivato in Etiopia in aereo. Ho aspettato 2 ore e poi ho preso un altro aereo per andare a Mali, a Bamako, dove sono stato fermo 2 mesi ad aspettare. Lì la mafia degli africani mi ha preso in consegna e assieme ad altri mi ha portato in una casa ad aspettare la tappa successiva del viaggio. Ma c'erano molti problemi. Poco riso, poca acqua. Vivevamo in 30 persone in una piccola casa. Era anche impossibile lavarsi. La mafia mi diceva che non si poteva usare troppa acqua perché non avevamo pagato abbastanza. Siamo rimasti lì 2 lunghi mesi. Poi l'agente della mafia mi ha detto che ci saremmo spostati in un'altra città del Mali. E così siamo andati a Dugao. Lì ho aspettato 2 settimane. Poi abbiamo iniziato a preparare il viaggio nel deserto. Allora la mafia ha procurato un camioncino. Eravamo 18 persone, carichi di carburante, bagagli, acqua e cibo. Un caldo incredibile. Abbiamo avuto tanti problemi durante il viaggio. La gente vomitava, stava male. Dopo un giorno e una notte di viaggio abbiamo raggiunto la frontiera con l'Algeria e poi siamo stati lì fermi altre 2 settimane. Poi siamo ripartiti per un'altra tappa. Un viaggio che doveva essere di 600 chilometri. Lungo la strada diventava il doppio, su e giù per le montagne, per evitare i controlli della polizia. Il caldo era insopportabile. 2 miei amici sono morti per il caldo. L'autista ha tirato fuori 2 sacchi di plastica. Abbiamo messo dentro i corpi e li abbiamo abbandonati in un crepaccio. Io ero distrutto dal dolore. Poi abbiamo proseguito il viaggio verso Tamarrasset e poi Gardea. Lì abbiamo aspettato altri 2 giorni chiusi in una casa. Poi ho dovuto prendere un taxi per passare la frontiera tra Marocco e Algeria. Il trafficante mi ha detto che era meglio così e che non c'erano problemi e nessuno ci avrebbe chiesto nulla. Invece alla frontiera i militari ci hanno fermato e chiesto i documenti. Ho detto che non avevo nulla e che tutte le mie cose le aveva in mano la mafia. Così sono finito in carcere. 2 settimane a Gardea e poi 3 giorni a Tamarrasset. Era pieno di neri africani, uomini e donne, pochissimi indiani e del Bangladesh. E c'erano sempre problemi con loro. Ci prendevano in giro e ci provocavano. Una notte i militari ci hanno caricato su un grosso camion e ci hanno riportato alla frontiera con il Mali. Ci hanno lasciato in mezzo al deserto e tirava un vento fortissimo. Viaggio in deserto. Così parla Gurgisi, stringendo in mano il Gutka, il testo sacro dei Sikh, l'unica cosa che è riuscito a salvare dal lungo viaggio. Così racconta di come non sapevano a cosa sarebbero andati incontro. Sapevano solo che sarebbero arrivati in Europa, illegalmente, ma in pochi giorni. La realtà fu ben diversa. Gli indiani, che hanno viaggiato in tempi diversi, in gruppi diversi, hanno conosciuto le prigioni algerine e marocchine prima di entrare a Ceuta. Hanno vissuto sulla loro pelle il ping pong tra le frontiere e tra le polizie dei diversi stati. La pratica più diffusa della polizia è respingere o riaccompagnare i migranti a quella che è la frontiera più a sud, il che vuol dire, spesso, il deserto. E lì la morte è sempre in agguato. Ascoltiamo ancora il racconto di Babu. I tell you a story from the last 4 years. Four or five years ago, in 2004, I left India. Lasciai l'India 4 anni fa per dare una mano alla mia famiglia e migliorare le nostre condizioni di vita, ma non sapevamo che avremmo trascorso 4 anni in giro. La rotta è stata Addis Abeba, Ouagadougou, e poi su, verso il Marocco. Alcuni di noi hanno speso fino a 30.000 euro per arrivare fin qui. Alcuni vengono da famiglie di agricoltori e così hanno venduto una casa o chiesto prestiti alle banche per finanziare il viaggio. Ho trascorso 2 anni in Marocco, 7 mesi nel Sahara. È difficile sopravvivere nel deserto. Abbiamo visto molti cadaveri. 2 amici miei sono morti lì, senza cibo e acqua. Mi ricordo che a tratti non sapevamo dove stavamo andando. Quando il trafficante ci dava cibo, mischiava il cibo, il riso con della terra e l'acqua mischiata a benzina. Tutto questo per risparmiare sulle scorte. Il cibo e l'acqua diventano disgustosi e tu ne mangi pochissimo. E così durano di più. Solo che dopo vomiti sangue e stai malissimo. Nel dicembre del 2006 raggiungemmo Ceuta, ma pensammo che fosse l'Europa. Avevamo pagato per l'Europa. Per tutti Ceuta è parte della Spagna, per noi è parte del Marocco. Poi ho capito qual era la verità. Un'altra frontiera. Sai, nel nostro viaggio abbiamo passato tante frontiere di notte, ma questa qui a Ceuta è l'ultima frontiera e non so quando la passeremo. Entrare a Ceuta mi ha messo angoscia. Il doppio cancello è sorvegliatissimo, i militari sospettosi, il lungo marciapiede a fianco al muro vede sfilare migliaia di marocchini carichi di merci che entrano in Europa per un giorno per poi uscirne la sera. 30.000 ogni giorno per acquistare mercanzia spagnola da rivendere poi in Marocco o anche viceversa per vendere merci del paese magrebino in territorio iberico. Alcuni portano merci di contrabbando, altri hashish. Ceuta è una piazza importante. Spesso si generano pericolose calche all'ingresso, risolte dall'intervento della polizia marocchina che, in quanto ad ordine pubblico, ha il manganello pesante. A fine maggio due donne sono morte soffocate proprio qui. L'aria è carica di tensione. Il peso dell'Africa tutta intera è qui, su queste mura e su queste reti. Lo respiri e lo percepisci. La frontiera di Ceuta. I controlli a ben vedere sono minimi, considerando il numero di persone, tanto che l'allarme terrorismo è sempre ai massimi livelli. Dall'anno scorso i servizi segreti spagnoli monitorano con rinnovata attenzione il varco di Tarajal. Da qui tenterebbero l'ingresso in Europa militanti d'Al-Qaeda. Da qui, proprio nei mesi scorsi, almeno uno di loro ce l'avrebbe fatta. Ceuta, la frontiera. Passarla illegalmente è come giocare alla roulette. Può andare bene, può andare male. The first way in the car. Il primo modo per entrare è con la macchina. Ti dicono che è facile. Ti chiudono dentro la cassa dell'amplificatore dell'autoradio. Ti mettono dentro e poi richiudono con le viti. Non riesci a muoverti e respirare, è tutto buio. In 40 minuti di solito passi la frontiera. La seconda via è con la barca, ma anche quello è pericoloso. Si parte da Tangeri o altre spiagge sulla costa per Ceuta. Si caricano 6 o 7 persone per ogni barca, ma quando si raggiunge Ceuta ne arrivano solo 3 o 4 perché gli altri sono morti. L'ultimo tratto si fa spesso a nuoto e molti non sanno nuotare. Io mi auguro che il governo capisca. Io ho spiegato alla polizia spagnola come funziona tutto questo e spero che chiudano la frontiera, che blocchino questo modo di arrivare in Europa, perché non è giusto che la gente muoia. L'anno scorso una persona morì dentro il cruscotto di un'auto. La polizia la fermò alla frontiera, l'autista scappò, ma i militari non sapevano che c'era una persona nascosta dentro la macchina. Rimase chiusa lì 10 ore. La polizia la trovò cadavere. Altre volte l'autista abbandona la macchina sulle montagne prima di arrivare alla frontiera, perché magari ci sono dei controlli. È difficile, molto difficile, e pericoloso. Altre volte l'autista guida veloce per scappare dalla polizia e fa degli incidenti, andando a sbattere contro un muro o un albero. E tu sei lì, incastrato e chiuso dentro al cruscotto dell'auto. Io morirò all'avventura, mi continua a ripetere un ivoriano che da 3 mesi è nel centro dei migranti di Ceuta. Io morirò all'avventura. L'avventura, l'aventure, per i migranti, è il grande viaggio verso l'Europa. Il riscatto, l'odissea, l'esodo, il cambio di vita, a costo della vita.